Salve a tutti e bentornati a un'altra puntata sull'Arcadia. Bentornati con me, io sono Gabriele. Grazie a Radio Big Word, siamo qui per rispondere alle domande più frequenti che vengono fatte riguardo la terapia, questo argomento, sulle ospirazioni, su come è il nostro mondo. Quindi ho preparato questa cosa per voi, spero che possa chiarire alcune domande di qualcuno, magari forse ne porrà altre, però vediamo di scavare un pochino e vedere di che si tratta. Dov'è il Dov'è il bordo? bordo? Chi ha detto che c'è un bordo? E perché credere ce ne sia uno? Perché siamo stati portati a pensare che ci sia un bordo, a pensarla in quel modo che serve a far credere che sia ridicolo pensare che sia piatta, grazie alle immagini che ci hanno dato nei libri di scuola, la grande avventura di Colombo che sfidò il destino dei mostri marini di cui ci hanno convinto credessero all'epoca. Nel modello attuale più famoso della terapia, l'Antartico non è un continente, ma è un cerchio a 360 gradi fatto di ghiaccio che contiene gli oceani. Quando guardiamo la versione della mappa di Gleasons del 1892, in cui in cima c'è scritto che è scientificamente e praticamente corretta. Sopra è riportato as it is, che significa così com'è. Possiamo vedere nella mappa questo anello di ghiaccio. La mappa di Gleasons è praticamente la proiezione di una mappa che risale all'anno 1000, che è chiamata Azimuthal Equidistance Map. Potete trovare le immagini su internet. Guardatele, cercatele. La Azimuthal Equidistance Map, abbreviata è AE, è inoltre la mappa ufficiale del Servizio Geologico degli Stati Uniti, USGS, è il logo ufficiale delle Nazioni Unite e il più antico globo conosciuto al mondo risale al 1492. Questa è una cosa che dovete tenere a mente perché molti insistono nel dire che la Azimuthal Equidistance Map è una versione piatta del globo, cioè il globo che è stato fatto diventa piatto, quando invece è il globo la versione adattata e rotonda di quella mappa. Se la mappa piatta è venuta prima e è possibile convertirla in un globo senza nessun problema, dovrebbe già dirvi qualcosa riguardo a come sono arrivati alla menzogna del globo. Ora, tornando al fatto che ci sia un bordo o no, non ci sono le prove che ci sia il cosiddetto bordo passato il muro di ghiaccio dell'Antartico, ma ci sono speculazioni sul fatto che il piano su cui viviamo sia o estremamente grande, o addirittura infinito. E in entrambi questi scenari c'è la possibilità che ci siano più terre emerse tenute nascoste, come già detto in un'intervista dell'ammiraglio Byrd nel 1954, che ricordo era specializzato in esplorazioni, oltre che a essere un ufficiale della Marina, che disse queste parole. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. Se quella terra inesplorata, come dice l'ammiraglio Byrd, fosse nel globo, si troverebbe nell'Oceano Indiano, una recente scoperta di un'antica mappa buddista trovata in un giornale del 1907 sembrerebbe supportare quest'idea di un vasto piano con molte più terre emerse. Dove va il sole se la terra è piatta? Il sole né sale né scende, ma si muove in senso orario e circolare da est a ovest e sembra che salga o scenda per via della prospettiva. Il sole sparisce nel punto di fuga della prospettiva umana, nell'orizzonte dove il terreno tocca il cielo, e dato che il sole non è 149 milioni di chilometri lontano, ripeto, non è 149 milioni di chilometri lontano, ma molto più vicino e piccolo, la luce che viene dal sole illumina solo metà del piano alla volta, mentre compie il suo viaggio giornaliero. Come ho detto, la prospettiva, se guardate le immagini del sole all'alba e al tramonto, sembra che ci venga incontro o si allontani da noi, ma questo è dovuto alla prospettiva. Cosa c'è sotto la terra piatta? Questa è ovviamente una domanda a cui non possiamo dare risposta, dato che il presunto bordo non è mai stato trovato, ma molti presumono che, a prescindere dal fatto che sia tonda o piatta, hanno questa idea che viaggia nello spazio, ma questa idea vola fuori dal finestrino insieme alla teoria del globo. Molte religioni e testi supportano che la Terra sia immobile e abbia delle fondamenta su cui è poggiata e ci siano dei pilastri che la supportino. Semplicemente non lo sappiamo, ma sicuramente sappiamo che la Terra è ferma, è ovviamente ferma, e lo possiamo capire dalle esperienze che viviamo tutti i giorni e dall'impossibilità di rilevarne o percepirne il movimento in nessun modo. Quello che vediamo nel cielo, e parlo delle stelle, sono oggetti illuminati che compiono un cerchio sopra di noi, proprio come quello che possiamo osservare anche dai filmati e dai timelapse. Qualunque cosa possa essere questo posto è quello che vediamo ed osserviamo. Qualcuno dice che la Terra è il pavimento dell'universo. Nell'antico ebraico concetto dell'universo siamo circondati dalle acque sopra e sotto. Lo scavo più profondo mai fatto nella Terra è di 12 chilometri. Quello che ci dicono sull'interno della Terra e di come è fatta sono solo speculazioni, se non un'altra bugia. Quindi cosa c'è sotto la Terra rimane un mistero per tutti, ma un'altra cosa che potete cercare dentro la Terra sono queste multibilionarie costruzioni militari costruite sottoterra, conosciute come il nome di DUMB, D-U-M-B. Cosa mi sai dire delle navi che spariscono all'orizzonte? Anche questo è dovuto alla prospettiva dell'uomo. Non vanno oltre l'orizzonte, come abbiamo già detto, ma nell'orizzonte, spostandosi oltre il limite della nostra vista e passando il punto di fuga. Ma barche e navi possono essere riportate facilmente alla vista con i binocoli, i telescopi e qualsiasi fotocamera che abbia delle buone lenti per lo zoom. E quello che dovrebbe essere oltre un rigonfiamento lo riportiamo in vista. Una grande domanda che dovreste farvi è: perché non possiamo vedere nessuna curvatura ad un'altezza di 36,5 km? Nonostante tanti affermino e vedono la cosiddetta curvatura da terra, guardando le barche, non ha completamente senso, non ha senso. E che cosa mi dici di tutte le foto della Terra? Sono chiaramente immagini fatte al computer, che dichiarano come vere, vere foto della Terra, come la foto dell'Apollo 17 nel 1972. Dicono che sia vera, come affermano che la famosa foto del 2015 sia reale. Ma Robert Simmon, un impiegato della NASA, ci aiuta a capire come vengono fatte queste foto, quando condivide la sua esperienza nel creare la cosiddetta Blue Marble 2.0 nel 2002. E sentiamo cosa dice. And then where it was a little bit higher, it was like a little bit brighter green. Then add the clouds back in. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's has to be. Then there was another layer to sort of simulate the atmosphere. And then there's this little bright spot. It's called the specular highlight. So it's the reflection of sunlight off of water. Those are the pieces, but you can't just slap them all together. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just take Command Z a lot. There's artistry to creating the world. What I imagine it to be. Unfortunately, I'm not an astronaut. I've never been to space, but I've looked at these images over and over again, trying to sort of get the essence of it. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. Quindi cosa ci dice qui Robert Simmon? Qui cosa ci dice? Ci dice che in questa intervista praticamente gli viene chiesto come ha fatto a creare questa immagine della Blue Marble 2.0 e risponde dicendo che è tutto fatto ai computer, che ha usato copia e incolla un sacco e che deve essere per forza photoshoppata, deve essere photoshoppata, perché se no non c'è altro modo per creare, per avere l'immagine della Terra come abbiamo. E questo, secondo me, non lo so, dovrebbe farvi montare dei dubbi a riguardo sulle foto della Terra, oltre a tutte le immagini che ci sono, che dimostrano che è fatta al computer, che sono un computer grafica. Potete cercare l'intervista, è divertente perché non sa neanche lui, secondo me, cosa rispondere. Cercatela, lui si chiama Robert Simmons e è stato il creatore della Blue Marble 2.0. Quindi perché tutti i pianeti sono rotondi? Quando confrontate le immagini amatoriali fatte con grandi strumenti professionali e li mettiamo a confronto con quello che ci mostra la NASA dei pianeti e stelle, è chiarissimo che tutte le immagini della NASA sono fatte in computer grafica, non diverse dalle foto della Terra. Quello che conosciamo e che è che i pianeti sono luci rotonde, fisse, sopra il nostro piano. I cosiddetti pianeti e le stelle non sono quello che ci è stato insegnato. E il fatto che c'è una cosa rotonda in cielo non significa che lo sia anche dove appoggiamo i piedi. Considerando che non ci sono reali immagini della Terra e il movimento di essa non è mai stato provato, è molto più logico per uno arrivare alla conclusione che siamo in un piatto e immobile piano e tutto quello che vediamo nel cielo gira intorno a noi. Allora cosa è di satelliti e GPS? Per quanto possa sembrare assurdo e pazzesco, i satelliti sono un inganno. Vi siete mai chiesti perché non ci sono mai satelliti danneggiati? O avete mai sentito di un satellite cascato sulla Terra? E perché non ci sono malfunzionamenti dovuti al costante riscaldamento e raffreddamento? È strano che non si sciolgano nella termosfera, che è oltre 3600 gradi, non credete? Mi sono ritrovato a guardare la Luna tante volte e chiedermi perché non si vedono mai satelliti passargli davanti. Sapevate che ci sono centinaia di chilometri di cavi sotto il mare che serve al 90% delle comunicazioni, internet, telefoni, yada yada yada, e il GPS lavora con i ripetitori e antenne, è chiamata triangolazione. Vi siete mai accorti di queste torri alte e chiedervi cosa sono? La TV satellitare è solo una versione migliorata usando torri messe a terra, è tutto a terra, come le vecchie antenne TV. L'autore di libri di fantascienza Arthur C. Clarke propose l'idea dei satelliti nel 1945 in una rivista chiamata Wireless World, tradotto Mondo Senza Fili, e 20 anni dopo, nel 1965, hanno dichiarato di aver lanciato con successo il primo satellite commerciale per le comunicazioni. Oggi dicono che ci sono migliaia di satelliti in orbita. La cosa curiosa è che se provate a dimostrare l'esistenza, non farà che lasciarvi a bocca asciutta. Ma allora lo spazio è reale? Sì e no. Quello che vediamo nel cielo, così, così lontane come le stelle o i pianeti, sono lì. Come possiamo negarlo? Sono lì. Non sappiamo cosa sono, ma in realtà sono lì. Ora, cosa ci è stato detto? Cosa è lo spazio e come funziona? Non è assolutamente vero. Tutto quello che crediamo sul cosiddetto spazio è principalmente grazie ai film di Hollywood e altri intrattenimenti, compresi i cartoni per bambini. Ovviamente la propaganda della NASA ha la colpa maggiore. Tutte le immagini che vediamo di quello che crediamo sia il nostro pianeta, anche le immagini degli altri pianeti, sono tutte immagini in computer grafica. Come ripetuto più volte dalla NASA, non possiamo passare la cosiddetta fascia di Van Allen radioattiva, che sarebbe il firmamento. Quindi sentiamo cosa dice la NASA. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. In pratica, dice che questa navicella Orion, come la volete pronunciare, serve per fornire informazioni su questa fascia radioattiva, per poi poter un giorno portare l'uomo fuori dall'orbita terrestre. E già qui mi chiedo, ma non siamo già stati sulla Luna? Non abbiamo mandato strumentazioni costosissime nello spazio infinito? Ci dicono, anche questi astronauti, ci dicono che stanno progettando questo Orion, questo sistema, per poter andare oltre la bassa orbita terrestre e sperando di raggiungere posti come la Luna, Marte, asteroidi. Dice, ci sono un sacco di posti in cui saremmo o vorremmo andare, facciamo questo proprio per poter eventualmente andare anche sulla Luna. Come eventualmente andare anche sulla Luna? Non ci siamo già stati sulla Luna, stiamo progettando di andare su Marte, insomma, siamo arrivati su Giove con le sonde, perché ora ci dicono che non possono andare oltre la bassa orbita? La bassa orbita sarebbe un'altezza tra i 160 e i 2000 km. La cosa divertente è che la Luna, dicono che sia oltre i 2000 km, quindi come abbiamo fatto ad arrivare così lontano nel 1960 e 70 se non possiamo farlo oggi? Inoltre, la Stazione Spaziale Internazionale ci è stata data dalla NASA, come tutto il resto, d'altronde, è un inganno fatto con effetti speciali, modelli, piscine, aerei che simulano la gravità zero e altri trucchi cinematografici. Com'è possibile la circumnavigazione sulla Terra piatta? Questo è veramente semplice. Puoi viaggiare in direzione est e ovest per ritornare direttamente da dove siete partiti. La faccia della Terra sembra simile ad un orologio. Infatti gli orologi sembrano fatti apposta sulla base di come appare veramente il nostro mondo. Se seguiamo il compasso verso est abbastanza a lungo, ci ritroveremo ad aver fatto un cerchio completo. Stessa cosa se seguite ovest, ci ritroveremo ad aver fatto un giro completo. Come abbiamo detto prima, dato che la mappa della Terra piatta è facilmente convertibile in un globo, tutto quello che facciamo avviene sulla Terra piatta e non su una sfera. Com'è possibile che la Luna sia sottosopra nell'emisfero sud? Anche questa è una spiegazione facile. E immaginatevi di avere l'immagine della Luna al centro della stanza nel soffitto, appiccicata. A seconda di dove siete nella stanza, la Luna viene vista in maniera diversa. Quando vi fate questa domanda, tenete a mente che la faccia della Luna non cambia mai, mentre nella Terra sferica, nel modello del globo, ci si aspetterebbe di vedere altri lati o sfaccettature, ma questo non accade. Cosa ne è delle stagioni? Quindi il Sole è vicino e piccolo e circola intorno sopra alla Terra in una spirale. Nel tropico del Cancro nell'emisfero nord nei mesi estivi, poi giù nel tropico del Capricorno nei mesi invernali. Quindi quando il Sole è lontano dal polo nord, il centro della Terra piatta, è inverno nella parte interna ed estate in quella esterna a sud. Dato che il Sole è più piccolo e vicino, come ci hanno detto, le stagioni hanno molto più senso. Se il Sole fosse a 149 milioni di chilometri e avesse un raggio di oltre 643.000 chilometri, sentiremmo a malapena la differenza di temperatura come la avvertiamo noi. E riguardo la gravità? La gravità è necessaria per una palla rotante per funzionare. Le persone prontamente credono che non puoi cascare dalla palla rotante, che è lanciata attraverso lo spazio ad una velocità che non possiamo neanche comprendere, e neghiamo quanto sarebbe più semplice vivere su una superficie piatta che non si muove. La gravità è quella via di fuga per ottenere le cose che non possono essere spiegate e non sono mai state provate. La ragione per cui le cose cadono o fluttuano è semplicemente per densità e galleggiabilità, peso. Se qualcosa è più peso dell'aria che la circonda, cade. Se è più leggero dell'aria che la circonda, sale. Il vostro telefono, il vostro cellulare è più denso dell'aria che la circonda, quindi cade quando lo lasciate. Tutto funziona per la densità, non c'è bisogno di un fattore immaginario. E qui cito: la legge di gravità è detta dagli avvocati del sistema newtoniano dell'astronomia per essere una delle grandi scoperte della scienza e le fondamenta di tutta la moderna astronomia. È quindi possibile osservare che la gravità è il frutto solo della mente, che non esiste al di fuori del cervello di chi ne è convinto e difende l'intera ipotesi di questa così chiamata scienza. Cade a terra, piatto come l'oceano, e tutte queste certezze scientifiche, bellissimi passi dell'intelligenza, diventano una volta la più ridicola superstizione e la più gigantesca menzogna per ignoranti e creduloni. Thomas Winship da Zetetic Cosmology. Che ne è dell'effetto di Coriolis? Ci dicono che l'effetto Coriolis è il risultato della rotazione della Terra ed è responsabile per lo spostamento di un oggetto sulla superficie della Terra, nell'emisfero nord verso destra e sinistra nell'emisfero sud. Il problema sono cose come gli uragani e l'acqua nel lavandino, non sono sempre prevedibili ed è risaputo che girano in entrambi i versi, in entrambi gli emisferi. Inoltre, un'altra contraddizione che prova che l'effetto Coriolis è falso è che nessuna macchina volante, da aerei, elicotteri o anche i tiratori scelti, non debbano tenere conto per nessuna ragione di questa forza misteriosa. Se un proiettile che viaggia ad una velocità di 2700 km orari deve tener conto dell'effetto Coriolis, un aeroplano che viaggia a 885 km orari dovrebbe sicuramente tenerne conto. Quando guardate per le risposte, trovate che ci è stato detto che l'atmosfera si muove con la rotazione della Terra e quindi gli aerei non ne sono affetti. Quindi perché i proiettili dovrebbero esserne affetti da questa magica forza mistica, soprattutto quando vanno molto veloci di un comune aereo? Non torna, non ha senso. Perché non posso vedere infinitamente lontano? Questo è per le persone che si chiedono perché non possono vedere determinate cose che credono di poter riuscire a vedere se la Terra fosse piatta. Ho risposto in numerose occasioni a domande del tipo: perché non posso vedere il Monte Everest da qualsiasi punto della Terra? O perché non posso vedere l'America dalla costa della Spagna? Bene, oltre a terra, polvere, rugiada, pioggia, smog, fumo, nuvole, nebbia, foschia, neve e yada yada yada, la vostra visione è limitata dal punto di fuga della percezione umana. La terra piatta è una cosa religiosa? Sì e no. Dico sì perché non sono mai stato religioso e non mi definisco tale. È difficile per me credere in qualcosa, ma cercando i fatti con il meglio delle mie abilità e il fatto che il movimento e la curvatura della Terra non sono mai state provate, la Bibbia senza ombra di dubbio supporta il fatto che la Terra sia stazionaria e immobile. Il libro di Enoch, che è biblicamente sostenuto e appartiene alla Bibbia, descrive la Terra come piatta, stazionaria e chiusa in grande dettaglio. Molte religioni e civiltà pre-cristianesimo supportano una Terra piatta e stazionaria, come i babilonesi, gli egiziani, i maya, i norvegesi, indù, inca, eccetera. Questa fantastica palla rotante è nuova per il popolo del mondo e molti si comportano come se una teoria fosse indiscutibile, e siamo condizionati a ridere quando viene tirata fuori il concetto di terra piatta. Che siate religiosi o no, potete vedere la terra piatta con i vostri occhi. C'è la società della terra piatta dietro al ritorno di queste cose? No, la società della Terra piatta o Flat Earth Society è predisposta come unità di contenimento. Coloro che hanno le chiavi e dicono la verità su alcune cose, mentre mentono su altre, per fare in modo da farle apparire ridicole o direzionandovi sulla strada sbagliata. Per esempio, dicono che la gravità è dovuta al disco che sale e quindi ci tiene a terra. Dicono che questa forza è di un G, che è, guarda caso, la stessa del globo. È questo tipo di cose che intendo quando dico di scavare e non fermarsi alla prima risposta che ci dà Google o Wii. L'idea di terra piatta non è mai morta. è solo andata scemando fino al 2014, inizio 2015, quando Eric Dubay ha iniziato a fare molto rumore al riguardo e ha preso con sé molte persone a bordo, come me per esempio. Mi ci è voluto più di un anno di ricerche per accettare finalmente la verità su dove viviamo, grazie alla quantità enorme di ricercatori, creatori di contenuti come me e attivisti. Da allora sempre più persone si sono svegliate e si stanno svegliando alla menzogna enorme giorno dopo giorno. Quindi tutti gli scienziati, piloti e membri del governo sono dentro questa cosa? No, la maggior parte degli scienziati e piloti, membri del governo, sono stati indottrinati, proprio come il resto di noi. Quando fanno il loro lavoro quotidiano, lo fanno con l'idea che è un globo, anche se molte di queste persone sono a conoscenza che la Terra è piatta. Molto probabilmente non diranno neanche una parola al riguardo, per paura di perdere il lavoro o rovinare la propria reputazione o quella della famiglia. Per la scienza mediatica, porre domande sul modello attuale è un grande no. Per quanto riguarda i politici e i membri del governo, e per quanto vengano date per certezze quello che viene dalla NASA, anche se non è del governo, per me non sanno e continuano a perpetuare questa bugia senza rendersene conto. Solo una manciata di persone a confronto la popolazione del mondo è a conoscenza della verità e che la Terra è piatta. La NASA non è la sola agenzia spaziale, anche le altre agenzie nel mondo ci mentono? La risposta è sì. The Vector è il logo ufficiale della NASA. Se non ci avete mai fatto caso, guardate il logo della NASA e noterete quelle strisce rosse che ricordano la lingua di un serpente. Bene, lo chiamano Vector. Se chiedete agli ufficiali delle pubbliche relazioni della NASA il perché questo simbolo è così tanto presente in tutti i loro loghi e immagini, vi daranno la più semplice e ingenua storia per la persona comune che non comprende. Vi dicono che è una rappresentazione di un'ala ipersonica progettata nel 1950, che è lo stesso periodo in cui il logo della NASA è stato creato. Ma non è questo il caso. Qualcuno potrebbe chiedere alle agenzie spaziali federali russe, la Roscosmos, che è stata formata nel 1992, perché scegliere lo stesso simbolo? Visto che ci siamo, chiediamo ai cinesi, che hanno formato le loro agenzie spaziali nel 1996, perché mai usano il simbolo dell'ala ipersonica, Hypersonic Wing, del 1950, presa e messa lì come simbolo ufficiale? Poi possiamo chiedere ai giapponesi, e al Sud Corea, alla Thailandia, alla Malesia, al Messico, Iran, tutti questi paesi, anche la Bulgaria, usano tutti questa simbologia. Questo simbolo, Vector, nei loro stemmi per le loro agenzie spaziali. Possiamo andare ancora più a fondo, potete andare a vedere le individuali toppe della NASA, del programma di Mercurio, per esempio. Un uso sfacciato di questa simbologia in ogni singolo logo con il programma di Mercurio. Quello che vedete, che sembra un numero, è in realtà il solito simbolo camuffato. C'è un praticamente si vede un 7. E ancora, la storia ufficiale della NASA è per dare omaggio ai primi veri 7 astronauti della missione, dimenticando che sono solo 6 andati nello spazio. Il 7° non ci fu perché aveva un problema di cuore e non partecipò alla missione. Quindi abbiamo solo 6 astronauti per il programma Mercurio, Mercury Program. Ma abbiamo il numero 7 in ogni singolo simbolo di ogni missione ufficiale. C'è questo simbolo e continua con i programmi degli altri Space Shuttle. Se guardate il logo dell'Apollo, se andate a vedere il logo dell'Apollo, c'è una grande lettera, ma ancora una volta è solo un semplice modo per introdurre questo vector, questo simbolo, questa simbologia. L'originale Space Shuttle Program STS è una pezza triangolare e ancora anche lì che nasconde il simbolo vector, e ancora che si ripete in una moltitudine di missioni. Ogni singola missione della Stazione Spaziale Internazionale porta questo vector, questo simbolismo. L'Agenzia Spaziale Russa usa questo vector, è il simbolo ufficiale. E guardate le compagnie e aziende militari, anche loro hanno lo stesso simbolo, come la Lockheed Martin a due vector, la X-Prize, la Ames Research Labs, US Space Command, United States Base Commander. Il simbolo ufficiale è il vector. E quando guardiamo ogni singola missione spaziale o programma, ha questo simbolo dentro. Tutte portano questa insegna. E la vera domanda è: chi o cosa vogliono dare omaggio tutte queste agenzie e tutti questi paesi? Cambiando un attimo argomento, guardiamo le immagini NASA Earthrise. Cercate NASA Earthrise e mettiamole a confronto con quella di JAXA Earthrise e ditemi se credete siano reali. Chi è il responsabile di tutti questi inganni? Troverete che il Vaticano e i Gesuiti sono coinvolti personalmente in tutte le cose che riguardano lo spazio, compreso l'avere i primi propri telescopi e possedere tutt'oggi la maggior parte di osservatori e telescopi nel mondo. La Società dei Gesuiti è stata attiva nel diffondere il modello eliocentrico per 500 anni, cercando di sostenere, di sotterrare centinaia di anni di cosmologia di Terra piatta. I Gesuiti sono i padroni delle potenze di cui siamo a conoscenza e sono stati spietati nel cercare di dominare il mondo per centinaia di anni. Senza importanza di chi viene ucciso o quello che deve essere fatto per stabilire l'unico ordine mondiale dal caos. Sono quelli che comandano o sono in combutta con persone come i Rothschilds e molte altre banche internazionali, società segrete, specialmente la massoneria, Zionist e specialmente quelli che siedono al potere. Controllano tutte le agenzie dalla A alla Z, includendo anche NSA, CIA, FBI, Mossad, KGB, Roundtable, Committee of 300, Tavistock Institute, Lucis Trust Publishing, Bilderberg Group e The Council of Foreign Relations. Scusate la pronuncia, però sono tutti nomi abbastanza complicati. Comprese rappresentanze governative e legislative come l'US Presidency, il Congresso e la Corte Suprema. L'ordine dei Gesuiti è stato creato dagli ebrei, ancora mostrando che gli ebrei sono dietro le più grandi menzogne della storia. Qui non voglio entrare nello specifico, io non ce l'ho con nessuno, per me siamo tutti uguali, dico solo le cose per quello che vedo. La massoneria si è inoltre propagata per tutto il mondo, anch'essi per portare avanti questa cosa che serve i cosiddetti illuminati. Perché la bugia? Quello che vogliono è di convincere noi che siamo solo uno degli innumerevoli pianeti che volano nello spazio infinito. Vogliono che pensiamo che non siamo altro che un incidente cosmico causato dal Big Bang 14 bilioni di anni fa. dove trovano questi numeri, da dove li hanno tirati fuori. Vogliono che non veniamo a conoscenza sulle nostre origini e che continuiamo a credere che la vita non abbia significato. Vogliono che crediamo che la vita aliena è reale e che sono stati loro a crearci. Mettiamo in conto anche gli innumerevoli show e film che usano per programmarci. Questo non è solo terra piatta contro terra tonda, è molto più di questo. Un'altra ragione per trasformare la terra in una palla può essere per nascondere altra terra, altri continenti. Se questo fosse un piano e ci fossero altri continenti oltre l'Antartico, con altri oceani e altre terre emerse, e un modo per nasconderle è metterle su una palla e dire che non c'è altro. Noi siamo persi nell'universo, il globo è una macchina per la schiavitù, a tutti gli effetti, per chi ha la mente per vedere. Cosa cambia se la Terra è piatta? Significa che le origini dell'uomo sono state deliberatamente tenute nascoste. Uomini, donne, bambini, siete stati ingannati in larga scala. La Terra piatta, che sia un piano infinito o meno, significa che è stato creato, che sei stato creato. Siamo stati creati, evoluti, siamo stati progettati e creati. Siete speciali e con uno scopo tenuto nascosto, di proposito. Crediamo di conoscere il nostro mondo e le ragioni per cui siamo qui. Siamo stati risucchiati da questo sistema monetario che controlla assolutamente tutto e comanda questo mondo virtuale. Alcuni di noi sanno che siamo schiavi e cerchiamo di scappare da questa realtà rifugiandoci in film, show televisivi, videogame che aiutano ancora di più nella programmazione e il condizionamento mentale. Non abbiamo mai voluto essere così e vivere così. La conoscenza del nostro mondo piatto è un passo in avanti nella giusta direzione, è qualcosa che non ci può essere portato via, è il carburante di cui abbiamo bisogno per conoscere, per far conoscere a questi bastardi che non ce ne andremo giù nell'ignoranza, che non accetteremo la loro volontà di governare il mondo come unica autorità che vuole controllare il mondo e le nostre menti. Abbracciate questo mondo piatto che ci appartiene e liberate la vostra mente dal controllo mentale globale. È tempo di alzarsi in piedi per noi tutti, per la nostra bellissima terra. Quello che voglio sapere è chi verrà con me. Dall'Arcadia è tutto, grazie a Radio Big World e alla prossima, ciao.